suscitate in me e in molti italiani un problema. Voi siete dei bastardi odiosi, però non riusciamo a smettere di ascoltarvi. Tirate fuori il peggio dai politici, ma non riuscite però a finalizzarlo a nessun tipo di scopo etico. È una cosa tremenda. La Zanzara. Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Eccoci qui, cari ascoltatori della Zanzara, prima puntata di due puntate speciali. Siamo nel giorno della vigilia di Natale. Dove sei, Parenzo? Dove ti trovi il 24 dicembre? Ma adesso ti metti pure a cantare le canzoni di Natale? Certo, Natale bisogna essere tutti più buoni, cioè, non cominci con con le sue mostruosità. Spero che lei abbia invitato qualche intellettuale che ci racconti il vero senso del Natale. No, oggi non c'è nessun ospite, oggi ci sono i personaggi, giusto appunto, i mostri, alcuni dei mostri, non necessariamente in senso negativo, passati alla Zanzara quest'anno. Allora, tu sai chi ha inventato la Berlusconi Generation? La Berlusconi, per forza, c'è la Biancofiore, White Flower. Eccola qui, una delle Amazzoni. Sentiamola anche a Natale, sì. Sofia, portami via. Perché a lei è piaciuto che Berlusconi sia arrivato in treno l'altro giorno? Mica una novità, ha detto pure che è bello, ho provato per la prima volta, ma il Frecciarossa, altro che in mezzo alla gente, doveva provarlo prima. Attenzione, io è stata una cosa grandiosa, e questo mi fa capire che grandiosa. Sì, assolutamente, perché Berlusconi, ovviamente, essendo un grande imprenditore, come tutti i cittadini italiani sanno, ha sempre viaggiato con i propri aerei personali o col proprio elicottero. E che è grandioso prende Frecciarossa? No, è grandioso che uno come lui, che peraltro voglio dire, sappiamo è sottoposto spesso e volentieri a sberleffi, a festeggiamenti, eccetera, abbia intanto, dopo la questione Lazio, che è una cosa grande, abbia avuto il coraggio innanzitutto di salire su un treno in mezzo alla gente. Ma è circondato dalla guardia del corpo, che in mezzo alla gente, ma quando mai? Ma ovvio che è circondato da guardie del corpo, questo non significa che comunque non è stato mai evitato il peggio anche dalle guardie del corpo. Andare in treno è stata una mossa popolare. Eroica. Assolutamente sì, no, eroica no, non parliamo di eroismo, ma popolare assolutamente sì, gente. Ma guardi che in treno ci vanno tutti. Ma diciamo tutti, non lui, che è un grande imprenditore, tutti i grandi imprenditori del mondo, non solo quelli italiani, hanno i propri mezzi di trasporto. Ma dove vive lei? Fra la gente, perché? Perché fra la gente lui, il treno è il mezzo di trasporto che più unisce ma il paese. Ha detto che l'ha provato per la prima volta. Ha provato per la prima volta il Frecciarossa. Da giovane prendeva anche ha detto che è molto comodo. Frecciarossa l'ha creato lui l'alta velocità. Ma che ha creato lui? Sì, ha creato lui l'alta velocità. Ma questo l'ha detto Berlusconi, ma è una stupidaggine. Ma non è una stupidaggine. Chiamate la figlia di Necci, perché il povero Necci purtroppo è passato a miglior vita, e chiedete se è una balla pazzesca. Il telefono sta al Senato della Repubblica, dove un ottimo funzionario del Senato della Repubblica non è Biancofiore. Scusi, io voglio dire, capisco che voi volete criticare, o che comunque genericamente l'uso di questo paese è quello di criticare ad oltranza Berlusconi, ma non tutti avrebbero fatto quello che ha fatto Berlusconi. Lui è sceso. Ma come non gente, tutti? Prendere il treno con Frecciarossa non è una. Guardi, per me è normale, per lei è normale, per la gente normale è normale, scusate la ridondanza di parole, ma per uno che c'ha mezzi di trasporti proprio, di trasporto proprio. Vabbè, è una cosa eccezionale. È una cosa eccezionale. Tant'è che la gente era sorpresa di vederlo alla stazione di Milano, alla stazione di Roma, ha ricevuto applausi, ha ricevuto. Ma come l'ha visto lei dal punto di vista fisico? Come l'ha visto? Straordinariamente in forma ha capito tantissimo, a parte quello ha buttato giù la pancia, perché poi lui non è che ogni tanto quando ingrassa mette sulla pancia, ma detto ciò è in una forma straordinaria. Siamo al top, fatte le analisi economiche del mondo, poi tanto poi arrivano tutti dietro, alla fine capiranno tutti che lui ha ragione, come poi è sempre stato dimostrato. Analisi economiche che sarebbero delle vere e proprie lezioni adesso di economia per chiunque, sarebbe bello rimanere ascoltarlo. Cioè sarebbe bello rimanere ad ascoltare le lezioni economiche di Berlusconi, perché raramente si sente una persona avere una una visione così limpida di dove va l'economia mondiale, dove va l'economia di mercato. Adesso mi fumo una canna. Di cosa dovrebbe fare l'Europa, di cosa, quali sarebbero le soluzioni per la crisi? Magari uno lo ascoltasse sempre. Cioè uno dovrebbe pendere dalle labbra di Berlusconi. Ma adesso io capisco che voi dovete sempre fare. No, ma scusi, però noi abbiamo, lei ha detto che Berlusconi ha una tale visione del mondo, dell'economia, eccetera, che uno dovrebbe stare ore ad ascoltarlo. Senta Cruciani, Parenzo non sta parlando adesso. Comunque, Cruciani, io voglio dire una cosa. Quando Berlusconi andava ai vertici di capo di governo, quando andava ai vertici di capo dei capitali di governo, era l'unico che aveva lavorato realmente in vita sua, era l'unico che aveva fatto impresa, tra lui, la Merkel, eccetera, non c'è paragone. E sapeva realmente, concretamente, come funzionava il mercato mondiale, funzionava l'economia. Gli altri erano degli fancazzisti. No, professorini o avvocatucoli. Guardi, diciamocela chiaramente, Sarkozy era un avvocatucolo di provincia. Poi? La Merkel era una funzionaria della Germania dell'Est, comunista, era l'unico che nella vita ha creato un impero con le proprie mani. E poi l'altro chi era? Chi c'era l'altro? E dava lezioni a tutti, tant'è che oggi quello che fa Draghi, quello che fa Monti, lo stesso Monti, se non vi dispiace, dice che Berlusconi ha fatto, che lui sta continuando l'agenda di Berlusconi, e che Berlusconi dice delle sacrosante verità, tant'è che ne manifesta non dice proprio così apertamente la stima. No, però scusi, è interessante quella cosa dell'avvocatucolo, cioè Sarkozy era un avvocatucolo, Merkel c'era, poi gli altri che non hanno un grande imprenditore, e gli altri che non hanno mai fatto nulla, chi c'era pure? Anche gli inglesi erano. Penso che gli altri non hanno mai fatto nulla, non lo so, però in ogni modo nessuno ha mai lavorato. È chiaro, è quello che Berlusconi ha sempre combattuto in politica, no? Il termine. E Obama è un modesto avvocato che è stato montato tantissimo sistema mediatico. Ma un modesto avvocato? Perché era un modesto avvocato, non era un avvocato famoso, era un modesto avvocato che si è fatto strada molto bene. Cioè l'unico, una grande stima di Obama, anche se poi penso che insomma abbiamo avuto presenti negli Stati Uniti molti avveduti per certi versi, però insomma dico che era un modesto avvocato, sì, è la verità. Cioè, però non è, scusi, che fosse, un attimo, cioè, dite che era un tycoon come Berlusconi, cioè lei pensa che fare l'avvocato tycoon, con intero e dare lavoro a oltre 200.000 persone sia la stessa cosa? Cioè Berlusconi giganteggiava. Quanti ci sono nel mondo? Quanti Berlusconi ci sono nel mondo? Giganteggiava rispetto a questi. Ma certo, perché ha una visione di dove deve andare un'economia. Ma guardi la questione della BCE, lo dicono tutti, il problema dell'euro, ormai lo dicono tutti, ma però che lo dicono lo ha detto prima degli altri, ma il problema dell'euro è che e dell'Europa è che la BCE non può stampare moneta. Allora le spiego questo, il scusi, no, Bianco, si fermi un attimo, perché per la prima volta nella storia della zanzara manda un'ambulanza a Galea. Scusi, mi fa finire, il Giappone ha il 220% del Giappone. Devi far continuare, stai zitto. Però sapete come garantisce il debito? Stampando moneta, la stessa cosa, parliamo di Obama e degli Stati Uniti. Ma scusi, ma chi è ma siamo entrati in Europa tutti, Berlusconi pure ha accettato di entrare in Europa. Ma non che siamo entrati in Europa, lo sappiamo bene che siamo entrati in Europa, non è che Berlusconi vuole uscire dall'Europa, Berlusconi vuole trovare una soluzione alla crisi dell'euro. Ma la cosa di stampare la moneta, lo dice un sacco di gente prima di Berlusconi, non è che lo dice. Ma veramente chi l'ha denunciato per primo è stato lui, per la verità, perché gli altri non lo vogliono, la Germania non lo vuole, Draghi la pensa come lui, ma non Berlusconi, la Germania non lo vuole, punto. Oh. Anzi, la Germania vorrebbe tornare al Marco. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Di nuovo in onda la Zanzara, puntata speciale del 24 dicembre. Ma tu, Parenzo, te lo ricordi in che modo la White Flower, la Biancofiore, la Micaela Biancofiore accolse la possibile ricandidatura di Berlusconi? Ma adesso le parole esatte non le ricordo, ma godeva come una pazza, diciamo, questo era il senso dell'opera, della cosa, mi pare, no? Risentiamo. Proprio qui da me dovevi capitare, possa... che piacere ritrovarvi. Ma che bello, in una giornata mi dica come la verità, questa. Mi dica la verità, è felice quanto me o di più lei? Secondo lei molto di più. Insomma, io non è che le ho fatte oggi le dichiarazioni con Berlusconi, voi siete testimoni. È uno dei giorni più belli della sua vita. Lei lo diceva da sempre, questo bisogna dirlo. Diceva oggi ho detto Fiat Lux, finalmente, full luce, effettivamente. Full luce. Siamo arrivati alla determinazione che cercavamo, insomma, Fiat che il Lux. Di centrodestra. Sì, Fiat Lux significa full luce, finalmente si venne la luce. E finalmente si ha luce, finalmente c'è luce, c'è uno squarcio di luce in Italia, c'è uno squarcio di luce sulla politica del centrodestra, sulla linea politica, sul popolo della libertà in generale. Finalmente si riparte. È una luce all'orgasmo, praticamente. Qualcuno che indica la strada, insomma. È meglio di un orgasmo. È meglio di un orgasmo, praticamente. Infatti, questo lo lascio dire a voi, ragazzi, perché io a lei. Noi. Lo sapete, questo lo può dire Galan, una signorina, non è bene che lo dica. Beh, perché una signorina, anche le donne provano piaceri. No, hai ragione. No, ma rispettiamo la sua. Rispettiamo. Però è un giorno fantastico. È uno dei giorni più belli della sua vita. È fantastico, sì, devo dire di sì. Sono garrula. È uno dei giorni più belli della sua. Sono garrula. È uno dei giorni più belli della sua vita, si può dire. A memoria. Sì. Beh, no, adesso non esageriamo. Tra i primi due. Sono molto contenta perché uno dei giorni più tristi sicuramente era quello delle dimissioni di Berlusconi e non a caso io stavo lì con i miei ragazzi che erano venuti di notte per testimoniare la loro vicinanza a Silvio Berlusconi. Di notte. Sui ragazzi chi? Scusi, quelli che sostengono la signora. Ragazzi, io sono la coordinatrice dell'Alto Adige, dell'Alto Adige, del mio partito, certo, i miei giovani. Ah, scusi un attimo, però si può dire allora che è uno dei giorni più belli della sua vita? Perché non si può dire, scusi? Sì. Vabbè, perché i giorni più belli della vita sono altri, i miei valori sono altri, non sono questi. Oggettivamente sono molto contenta perché sicuramente con la mia azione in politica oggi ho trovato una grande soddisfazione. C'è, perché io questa cosa c'è il suo zampino, c'è il suo zampino. C'è il suo zampino in questa decisione? Il zampino no, mi darei troppa importanza. Sicuramente sono stata una di quelle, e voi mi siete testimoni, indubbiamente, che ha sempre voluto questa casa. Scusi un attimo, ma secondo lei veramente Berlusconi può vincere, signora Biancofiore? No. Assolutamente sì. Non solo può vincere, ma il suo partito, tanto più se si torna a Forza Italia, ma questo lo deciderà lui insieme ai vertici. Vedremo. Se sarà Forza Italia, sono pronta a scommettere che sarà tra il 25 e il 27% solo Forza Italia. Pazzesco! Boom! Strepitoso, Silvio. Io le mie elezioni lassù le ho vinte sempre. Vi assicuro che sapete perché parlo così? Perché io parlo con la gente, sto in mezzo alla gente. Ecco, chi dice? In mezzo alla gente. E la gente, il nostro popolo, chiaramente. È chiaro che ovviamente Berlusconi, si sa, è un discriminante. È chiaro che c'è chi sa chi lo ama follemente e chi lo odia brutalmente perché non lo conosce. Ecco, ma lei che gira tra la gente, lei che ragazzi, gira tra... se tutti gli italiani potessero conoscere Berlusconi personalmente non ce ne sarebbe più per nessuno, perché tutti capirebbero che razza di persona è, al di là di come viene avrebbe il 100% dileggiato, consenso totale. Il 100% non l'avrebbe neanche il Papa, però detto ciò, insomma, sicuramente il 99% sì, perché è una persona umana, perché è una persona di una gentilezza assoluta, perché è una persona che una delle poche che capisce effettivamente di economia. Ma è stupendo, è anche tenero, è delicato come è molto tenero, delicato non lo so perché non lo frequento dai punti di vista che potete pensare ma oggettivamente è una persona molto tenera, molto tenera ed è una non si può non volergli bene conosciuta. Se uno lo conosce non si può non volergli bene, se uno lo conosce non può non votarlo, questo è evidente. Vi faccio un esempio, ma io sono così perché non lo conosco. Notoriamente io ho fatto un compleanno dove lui era presente, miei 40 anni, lo si dice l'età, bene, ho portato di proposito una mia amica di sinistra, bene, dopo che l'ha conosciuta ha detto avevi ragione Berlusconi è tutta un'altra persona rispetto ha cambiato idea. Infatti a me piacerebbe che lui riuscisse a entrare realmente nelle case di tutti, perché tutti quelli che lo conoscono poi cambiano idea dalla bisognerebbe portarlo casa per casa, strada per strada. È purtroppo, però sto facendo il contrario per aiutarlo a decidere. Gli ho portato le registrazioni delle persone che incontro, imprenditori, persone semplici, gente normale, gente professionista, eccetera, che lo hanno spronato molto a tornare in campo. Cioè, scusi, lei registra delle persone che lo spronano a entrare in campo? Con loro permesso, ovviamente. Permesso, glielo faccio sentire a lui, certo. Dove le registra queste cose? Dove le registra? In consessi vari. Per strada, supermercato? Anche al supermercato, le persone che mi fermano e che mi conoscono e che mi dicono noi amiamo Berlusconi, gli dica di tornare in campo, lei lo registra, gli dica di fare Forza Italia, vogliamo lui, Monti ci ha rovinato, eccetera, eccetera. Io li registro, E poi lo fa sentire. E lui si carica pallettoni. Sì, perché così lui si rende conto, perché vede, sa qual è il dramma? Il dramma vero della casta è che tutti noi, ivi compresa la sottoscritta, spesso e volentieri ci facciamo influenzare dal palazzo, dall'idem sentire all'interno delle camere del palazzo. insomma, quello che la gente dice fuori è completamente diverso. Beh, le persone oggi sono ancora, forse ancora di più oggi, con Berlusconi rispetto ad un anno fa. Ma lui si quando lei vi fa ascoltare queste registrazioni, si carica Berlusconi, si carica a pallettoni, no? Ovviamente si carica, no, si carica, non ha bisogno di caricarsi, è talmente carico, anzi, si sa che lui è fin troppo carico, altro produce adrenalina, però il problema è troppa adrenalina. È normale che gli faccia piacere. Il Viagra della Biancofiore, una sorta di Viagra della Biancofiore, sì. non è minimamente Viagra, non ne ha neanche bisogno. Ma no, ma un Viagra motivazionale non ne ha si neanche chiama. Bisogno, insomma, ecco, allora io voglio capire una cosa, queste registrazioni che lei porta a Berlusconi, innanzitutto come sono fatte con il registratore? Con l'iPhone. Vorrei fare pubblicità, ma semplicemente con l'iPhone, essendo io della generazione, non solo della Berlusconi Generation, ma anche della Apple Generation, ormai. Della Steve Jobs Generation, evidentemente so usare l'iPhone, ma basterebbe qualsiasi tipo di registratore. Non c'è dubbio, ma ogni comodità. Ogni quanto gliele porta queste registrazioni? Ogni volta che lo vedo, più o meno. Ogni settimana? Io posso immaginare Berlusconi è carichissimo. Sente queste cose, è carico, carichissimo. Ma non è che non c'è bisogno di sentire questa cosa. Vabbè, ma è un Viagra. Dai, Michela, fammi vedere cosa dicono in giro di me. No, non me lo chiede lui, glielo faccio sentire io. Michela. Però lo imitate bene, siete bravi, avete un futuro. Dai, Michela, fammi vedere un po' cosa dicono in giro. Cosa dicono no, lì? No, questo non lo Amirano, dico, però glielo faccio sentire io. Mi esaltano, dicono che sono il numero uno. Sapete qual è il problema? Che quando sente la nostra nomenclatura si deprime, allora quando invece sente giovani come me, che comunque gli vogliono bene e che vogliono effettivamente portarlo di nuovo alla vittoria insieme al popolo italiano, beh, ovviamente. Scusi, ma non è troppo anziano, non è troppo anziano per fare la campagna elettorale? Ma guardi, l'anziano non è mai una questione di anagrafica, diciamo 70... così. Io conosco Berlusconi, è piuttosto bene 76. Per dirvi che è molto più giovane di tanti nostri giovani anche in Parlamento. Come di Alfano sicuro, di Alfano sicuro. Insomma, Alfano, sì, anche di Alfano, più capelli. Dico perché... Più giovane di Alfano. Più giovane. Beh, anche più capelli di Alfano, possiamo dirlo, più giovane dirlo, di Alfano, nel senso che Alfano purtroppo ha preso una prassi di fare politica che è quella molto simile a quella della Prima Repubblica. Mentre invece lui è rimasto rivoluzionario, ha avuto molto... è caratterizzato da tanto ardore. Certo. Spero che Alfano, insomma, si riprenda. Scusi un attimo, ma questi qua che adesso votano contro, Frattini, Cazzola, Manto, Frattini è pure delle sue parti, sua più o meno... No, Frattini non è delle mie parti, ma è mio fratello politico, quindi... ho capito, questi qua votano... Traditori. Quello che c'entra, no, assolutamente. Ognuno poi è libero di avere il proprio pensiero. Certo. In fondo noi ci chiamiamo popolo della libertà. Però dire, sono siamo traditori questi della qua libertà. Sono. Ah no, in questo caso no, anzi, se hanno il coraggio di mettere i traditori, sono quelli che ti pugnalano Mario alle spalle. Mario Mauro, per esempio. Chi ha il coraggio? Beh, Mario Mauro, francamente, ieri ha detto delle cose alle spalle che poteva oggettivamente... Sui giornali, che alle spalle? Visto che fino a ieri non faceva altro che blandire Berlusconi dalla mattina alla sera. Infatti io ho fatto un'agenzia nel dire è cristiano tradire le persone alle spalle, punto di domanda, io credo di no. In ogni modo Frattini è andato in Parlamento e ha votato in dissenso, come previsto dallo statuto e dal regolamento della Camera, dal gruppo, spiegando le sue motivazioni, che io personalmente non condivido. L'avverto, però, Biancofiore, lei ormai si trova sulla stessa linea di Gasparri, praticamente. No, sapete bene che siamo agli antipodi, lo sapete. Si è riallineato, Gasparri si è riallineato. Si è riallineato, io sono sempre stata della stessa linea, è lui che ha capito di aver fatto degli errori, evidentemente, visto che fino a stamattina sperava che il candidato non fosse Berlusconi ma qualcun altro. Mi pare di aver letto. Però scusate, ma se Berlusconi vince, lei cosa fa? Mi dica una cosa: se Berlusconi alle prossime elezioni vince, si spoglia in piazza, Biancofiore come la Ferilli, si ricorda la Ferilli? No, non ci penso proprio, non faccio la soubrette, io faccio il politico. No, lo però faccio un gesto eclatante: se vince Berlusconi, Berlusconi, mi sposo. Sono solo felice per il mio paese. No, non mi spoglierei mai. Mi sposo. Che ne so? No, sì, beh, quello potrebbe essere. Quello potrebbe essere. Però non se vince Berlusconi, non è legata alla vittoria di Berlusconi. No, non se vince Berlusconi. No, se vince Berlusconi magari mi faccio accompagnare all'altare, visto che mio padre purtroppo manca da 30 anni. Oh, questo è interessante. Quindi... Beh, quello si farà accompagnare comunque all'altare, a prescindere dalla vittoria di Berlusconi. No, certo, ma glielo chiederà comunque. Ma certo, quello probabile, molto probabile. Cioè, è una delle persone che lei ha più care al mondo, insomma, Berlusconi, in questo momento. Sicuramente. Mi faccia come se si vuole far accompagnare al posto del padre. A me e a tanti altri ha cambiato la vita, ma lui ha queste capacità. Infatti, una delle idee che io ho per la prossima campagna elettorale, che spero che lui voglia sposare, è quella di far emergere non soltanto le migliori energie vive di questo paese, cioè tanti giovani che, trovando i tappi, visto che Berlusconi adesso cambierà tutto, insomma, non hanno mai potuto far politica, ma anche andare a cercare quei tanti precari che probabilmente non avrebbero nessuna possibilità di candidare i precari, dice lei, candidare alla Camera. Alcuni precari bello. Di un certo tipo, ovviamente, candidare che sono, che possono emanciparsi socialmente attraverso la politica, attraverso l'applicazione all'interno. Ci sentiamo presto, la devo lasciare, ci sentiamo presto. Va bene, grazie a mille. Presto. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il petto su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Ma ti ricordi quando mi hai portato al pronto soccorso? E come no, certo. Come dimenticarlo, certo. Stavi a morire, amico mio. Era il 21 novembre, il 21 novembre, ed era il giorno in cui venne da noi, io mi sentii male subito dopo, ma non... Per carità, il personaggio in questione non ha nessuna responsabilità. Eri diventato bianco, non riuscivi neanche più a parlare, stavi malissimo, morto, tecnicamente morto, signor Cruciani. C'era con noi Antonio Pennacchi, il fascio comunista. Il fascio comunista. Però non si può far sentire prima della vigilia di Natale, signor Pennacchi. Cioè, non ha un linguaggio. No? Perché no? Propriamente un linguaggio da Santa Claus. Diciamo. Ma no, Pennacchi anche alla vigilia di Natale. Sì, ma tutta la vita. Ma Pennacchi è una persona moderata. Ricordate, per la liberazione dei Marò, proponeva addirittura di rapire i manager indiani in Italia, te lo ricordi? Sì. E come no, come dimenticarlo? Vi prego, non ce la faccio più. Veramente alcuni politici, lo possiamo dire, lo posso dire anche con questa voce un po' trans, diciamola tutta, hanno la faccia qualche volta come... Pennacchi, mi aiuti, hanno la faccia. Dillo tu, che mi hai chiamato a me per dirlo. Hanno la faccia come il culo, bisogna dirlo in maniera chiara. Sentite cosa dice il signor Calderoli, quello della porcata. Lei lo conosce, il signor Calderoli, Pennacchi, sì? No. Di vista, sa com'è, no? Ah, so qual è. Sa che è stato l'inventore della porcata, no? Della famosa porcata. Ci andrebbe mai a pranzo con Calderoli, lei? Mi auguro, guardi, bisogna essere educati con tutti, non bisogna essere maleducati con nessuno. Però preferirei proprio di no, insomma. Allora, Calderoli oggi in un'intervista a Repubblica dice: Calderoli, è difficile, quasi impossibile, mettere insieme gli interessi di tanti, sta parlando della legge elettorale. Continuano a pensare a casa propria e non al bene del paese. Loro. E non al bene del paese. Aspetti un attimo, però, Grucia. Sì. Lei ha detto, che parola ha detto prima, faccia? Come il culo, sì. Ecco, sì. Faccia da culo. È scorretto però dirglielo solo a no, ma quello vale per tutti. A tutti gli amici sua. Questi, l'altra volta, quando pensavano che vincevano loro, che dopo vincevano loro, allora si sono messi il premio di maggioranza. Basta. Sì. Se basta prendere il 25% dei voti e poi assopiglia tutto, maggioranza assoluta in Parlamento. Mo che invece, quando pensano invece che loro possono perdere, vincono con l'altro, pigli dall'altro il culo, levo tutto il mio paese. Ma non si fa così, ma questa è faccia da culo. Il più faccia da culo di tutti è quello dell'UDC, quel casino. Ce l'ha votata quella lui. No, perché lui è premio strega, sempre. No, perché dice no, la democrazia vuole che tu te devi scegliere le due cose, quindi vogliono le preferenze. Quindi non deve comandare nessuno, tutti sotto a molti. La democrazia vuole questo. La democrazia, noi abbiamo fatto un referendum a sto paese perché voleva l'uninominale, il maggioritario, questo lui non conta, perché se no questo non vale un cazzo. Le cose valgono solo quando gli parla a lui, come la storia della famiglia, no? Sì. Che lui è per la difesa della famiglia, eccetera. Contro il divorzio. Per la difesa della famiglia mia, la tua e la sua. Fuori che è la sua, perché lui c'ha una moglie a Bologna con non so quanti figli, poi l'ha lasciata e se ne è fatta un'altra Roma. Allora tu divorzi e te separi, fai tutte le mogli che te pare, poi vieni a rompere i coglioni alla famiglia mia, al matrimonio mio. Ecco, questi sono quelli che ci devono governare. Applausi, signor Pennacchi. Questi sono quelli che ci devono governare. Applausi, applausi. Applausi. No, guarda, mandami a casa, se no stasera condividiamo tutto. Io condivido tutto. Dobbiamo mandare i due TG3. Quando devono vincere loro, niente da fare, no, assomiglia tutto. Quando invece posso dire no, stavolta perdo, allora no, non vale niente, si è ricominciato da capo, un'altra volta con Monti. Mandatevene a quel paese, va. Luca da Roma. Eccomi. Sì. Dica. Salve Cruciani, salve. No, io volevo intervenire sulle dichiarazioni della Bindi. Sì, sì. No, oggi poi ci sono state anche le dichiarazioni di Vandola, mi sembra che tutti si stiano unendo, insomma, contro Renzi. La Bindi si sa perché, no? Perché la Bindi si sa perché, certo, ha il dente avvelenato nei confronti di Renzi, certo. Allora? Ok, ma cosa ha di berlusconiano Renzi?

è chiaro che interpreta bisogni concreti, però un paio di maniche è la protesta, altro paio di maniche è avere i modelli per poi uscirne fuori. Sì, e quando lui prospetta le cose, sì, che ha in mente, fanno ridere i polli. Nel senso, sì, che ma tu quando non vieta alle persone di andare nei talk show, lei è d'accordo? È una cosa folle, vuol dire che c'è un concetto di democrazia, bravo, che non è manco quello di Berlusconi. Cioè, allora, che democrazia è questa in cui l'unico che comanda sei tu? Beh, sì, tu con tanta televisione e tutti gli altri, certo, no. Ma, sei, ma vaffanculo, giusto, va, giusto, con te, ma c'ha ragione Grillo, ma c'ha ragione Grillo, ma che c'ha ragione, c'ha ragione Grillo, queste sono le mie regole, se tu vuoi partecipare al mio movimento, sì, non vai in televisione, non partecipare, oh, perché la rifa, questa non è democrazia, questa è dittatura. Allora, ma qua è dittatura, ma io se vivo pure a te e butto la finestra pure a te, ma vaffanculo, tu c'è stata la mattina alla sera in televisione, tu l'hai fatta, io non ci posso andare. Allora fammi capire una cosa, a quelli, ai suoi, proibisce ai suoi, i suoi, e che se li è comprati al mercato, non sono, ma persone che hanno una dignità, poi si sono pure presentati davanti al corpo elettorale. Bravo. Tu sei stato eletto consigliere comunale, sì, o regionale solo comunale, perché c'è Grillo, no, solo no, perché tu c'è, sei Grillo, stato nominato da Grillo, tu, come sei stato, no, eletto da migliaia di elettori, perché e Grillo poi tu rispondi messo... a Grillo, ma, ma tu sei scemo fronte qua alle elezioni comunali, quelli hanno scritto il nome tuo sulla scheda. Bravo. Capito? L'hanno scritto gli elettori, la massaia, i cittadini incazzati, stupidi, perché se sono fatti fregata a Grillo, quello che ti parla a te, ma sono loro che ti hanno eletto e votato. E poi quando tu stai in consiglio comunale, non devi tenere la coscienza tua, non devi tenere conto di loro, ma deve tenere ma quelli che sarebbero senza Grillo, ma vaffanculo a te, ecco, questo, sai quello dici tu, è quello che dice tanta gente, che sarebbero noi, polvere senza, che sarebbero Grillo, polvere, quelli sarebbero polvere, nulla, guarda, senza, guarda, Grillo, guarda, per cortesia, questo è, so, falla finita, ma che, no, falla finita, tutti gli esseri umani sono tutti quelli che sei Dio, ma sei un sta ragazzo che non capisce un cazzo. Applausi, ma va, applausi, guarda, con un mondo in cui si va solo in bicicletta e ti passa manco per la capoccia, che per fare biciclette ci vogliono, ci vuole l'acciaio, ci vogliono i forni, ci vogliono le centrali termiche, e tu vuoi decidere per me, per quello e per tutti quell'altro. Va, senti, che hai fatto i sordi, comprati un'isoletta e il padrone lo va, ma è manco là per andare a fare il padrone, perché comunque fa il padrone sugli esseri umani, considerare gli altri esseri umani come oggetti tuoi è come considerare gli schiavi, ed è contrario ai diritti naturali dell'uomo. Tu sei, che ha fatto? Da tribunale, Grillo, che ha fatto? Tu sei da tribunale, Grillo, io che da tribunale dei diritti dell'uomo. Bravo. Tu sei da essere, bravo, da essere rinchiuso, vabbè, e ricoverato all'AIA, come i criminali di tutti quelli. Cioè, anche Grillo, allora, anche Grillo, se proibisce i suoi di andare in televisione. Basta, sì, ma sa di sì. Ma pure a te che mi stai rompendo le cuore. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Cari ascoltatori, se siete ancora vivi alla vigilia di Natale, se siete sopravvissuti a questo straordinario Pennacchi, agli insulti, soprattutto nei confronti di Parenzo, perché ormai ha deviato la mira, prima puntava su di me. Adesso colpisce Parenzo, per fortuna. Ma te sei proprio un coglione, perché devi dire così? Il premio strega, il signor premio strega, un intellettuale, non può parlare così. Per tutti voi che siete per strada, in macchina, traffico, state costruendo l'alberello di Natale con i vostri figli o con la vostra amante? No, a quelli non gliene frega nulla del traffico, Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Ma non è finita qui, non è finita qui. Se pensate di avere sentito tutto Pennacchi, beh, vi sbagliate. Ecco, che effetto farebbe Pennacchi in tutte le case mentre si mangia la vigilia di Natale, Parenzo? Che effetto farebbe, secondo te? Io immagino la scena delle famiglie riunite con i nonni, la nonnina, l'anziana nonnina che addirittura esce di casa apposta per la cena natalizia, e a un certo punto il nipotino ventenne, grande ascoltatore della zanzara, interrompe la cena di Natale, dice: beh, ascoltiamo Radio 24. E si sente la nonnina, dice: che cos'è Radio 24? Che cos'è questa zanzara, amore mio? E uno accende la radio e sente una cavo a testa di gatto: ma devi farmi parlare, Cruciani, sei un coglione. Lorenzo dalla provincia di Lodi, buonasera. Facciamo calmare, sì, Pennacchi, oggi non posso rispondere adeguatamente, purtroppo. Ma vada, io, vada. Volevo chiedere, ma secondo lei è normale, sì, che Berlusconi paga delle ragazze così senza far nulla? L'altro giorno, sia ieri sul Corriere della Sera e sia, sì, oggi su altri quotidiani, sono uscite queste varie indiscrezioni che al processo Rubi, sì, queste